Thank you. Yep. Call the National Guard! Call the National Guard! Call the National Guard! Now, Clayton, Android, Mazzini, Coco, Coco, Wild, Mazzis, Mazzini, Spacci, Spacini, Yaya, Coco, call the National Guard! Thank you. I call the National Guard, call the National Guard. Call the National Guard, call the National Guard. artista tra i classici, sto pennello come drastic sulla Caesar salad, intorno sono festi di competitor, basti il loro standard, alien contro predator, torna a casa Letty, con la crew torniamo a casa Messi, le autoclu le dribbliamo come Lionel Messi, deja vu tutti questi pezzi, loro prezzi, prezzi molto bassi, di sequenza Nets che è al trepito, sotto casa sguardi persi, trepo io sotto casa, ti sento nei pezzi, ti sento nei pezzi, yo, yo, tu chiama l'usa fuori, così ti mostro l'exit, nel mio Shazam sono i miei DJ, il 25 sono pure i miei DJ, quelli della Shack, della Cake, e i miei DJ, ti diranno che l'hanno finita, faranno una cake. Nel mio backstage trovi solo Mary Jane, smoking lunghe delle Mary Jane, fumo sempre prima dei miei live, non salgo mai sobrio, altrimenti quando spaccherei, ciao proprio, per guardarmi le ginocchia chiama Margherita Hat, che lei di telescopio un po' ne sa. Mi trovi sempre classy, ci sto a pennello come il dressing sulla Caesar salad, intorno sono pezzi miei competitor, basti il loro standard, alien contro predator, torna a casa Letty, con la crew torniamo a casa Messi, le auto blu le dribbliamo come Lionel Messi, deja vu tutti questi pezzi, i loro prezzi sono prezzi molto bassi, viste queste mezche. Butta fuori così ti mostra Lexi. Benvenuti ad Armonica. Suoni all'armonica, ti sembra un organo sessuale. quasi quasi ho quasi un sega, ma come cazzo fai a fare un rave? Siamo al 6 di novembre, fa freddo a parlare. Quasi quasi ho quasi un sega, ma come cazzo fai a fare un rave? Siamo al 6 di novembre, fa un freddo polare. Voglio riportare molto alta, non c'è un sbatta, né gangiarti che mi presta il cellulare. Come sempre guido io, come sempre sulla Clio, porco Dio, fate di un enjoy. Questa notte faccio sega, manco che è tipo della seta. È tempesta, tempesta, tempesta di Madonna, la più bella è una cometa. È tempesta, tempesta di Madonna, la più bella è una cometa. Ciao. Fuma. Fuma. Fumo rotto, pacco ormano, infatti le campiane, le giorni sentono il richiamo. Sotto casa in casa presidiamo, non è strano, ma col califo in mano, califo califano, coi mezzati nei cartoni della pista, coi cartoni ma non quelli della pista. Io intendo sempre Ibiza. Fuma. Fuma rosso pacco ormano, infatti le gazzelle già le sentono il richiamo. Sotto casa in casa presidiamo, non è strano, ma col califo in mano, califo califano, coi mezzetti nei cartoni della pizza, coi cartoni ma non quelli della Pixar. Pioltello sempre in pizza, yo. Fuma. Fumo rosso pacco ormano, infatti le gazzelle già ne sentono il richiamo. Sotto casa in casa presidiamo, non è strano, ma col califo in mano, califo califano, coi mezzati nei cartoni della pizza, coi cartoni ma non quelli della Pixar. Pioltello sembra in vita. Fumo un club in Forlanini. Fumo un rosso pacco ormano. Fuma un'armonica che sembra un organo. fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Fumo rosso qua con mano, infatti le gazzelle già ne sentono il richiamo. Sotto casa in cassa presidiamo, non è strano, ma col calippo in mano, calippo califano, coi mezzati nei cartoni della pizza, coi cartoni ma non quelli della pizza. Pioltello sembra Ibiza, pioltello sembra Ibiza. Il largo degli alpini da vent'anni c'è una crew di marocchini che coi coltellini tagliano i panetti. Dividono perfetti, bilanciano perfetti, compongono quadretti molto suggestivi. Bangladini contro indiani, contro pakistani, si sfidano ai cricket, a me sembrano tutti uguali. Tabacchini e la famiglia dei cinesi, storia dei mellini spesi in campo, risode cretini, al bancone bianchini o grini, piastrellisti, leghisti bergamaschi. Con i bianchini ucraini, piastrellisti, leghisti bergamaschi. Nostalgia del senatore di Pontida. Vai bella, dammi una doppia sfida, che ho bisogno di farmi una nuova vita. Sono anni che non vado più al Mac, 3 del mattino, panino con l'andato back, stai latinos. Al tavolo di fianco a me la digos, porrista no shakito, dos amigos. Se chiede una cerveza io la invito, viene una bomba grassa come un cazzo di burrito. Il largo degli alpini c'è una crew di marocchini che non sa che noi eravamo uguali a loro ma 20 anni fa, yo. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. In ogni situazione le sente tutte uguali, tutte belle, grasse, novello, Salomone. Hey, hey. Thank you. Come Fred Gibbs, mica come Philip Klein. Wicked Lex, io non so farmi cazzi miei. Sex in public with a Latin teen. Public shame, what's the name? Glitter boy, cosa vuoi? Fatti un meal dei miei. Già il primo Frank sei nello space. Alf cocaine, come Fred Gibbs, mica come Philip Klein. Wicked Licks, io non so farmi cazzi miei. Sex in public with a Latin teen. Public shame, what's the name? Glitter boy, cosa vuoi? Fatti un film dei miei, che già il primo frame. Sei nello space, everyday a street parade. Street credibile, a un livello che è impossibile. Farne remake, kill the fake. Il mio DJ, oh no, oh wow. Il tuo DJ, ti imbroglia a schiacciare il play. Insane in the brain, nel mulino che vorrei. Maciniamo la farina che trovi a Brick Lane. AK-47, Purple Ace. Tanto lei gira perfetta, pure la mia lei. Thanks mate, grazie mille, tornerei. Ma Paganini non ripete, see you later, belli miei. Da adesso in poi si ascolta solo il Glitter Boy. Cominciamo. Girano bombe come gli spaghetti intorno alla forchetta, come le cartine piene in una mano esperta, come i miei coglioni. Se il barista non c'ha fretta, dice aspetta, cazzo vuoi? Sono Glitter Boy alla gola secca. Da adesso in poi sono il Glitter Boy. Dick Pick Legend, MC che frequenta solamente il raver. Il resto della scena non compete. Sorry baby. Troublemaker è il nome che mi segue da mo. 3 minuti al picchio, ho fatto Saigon. Sbirri a farmi da lucisti dal suo iPhone. Una fashion meeting, fa la foto al maresciallo Hall. Stato sempre molto giallo, cazzo fare tanto. Sigue mas, non c'è trucco, non c'è inganno. E in giro neve come in Fargo. Il mio negro mi è caldo. Voglio la mia carne, sono Shylock. Come la condizionale, il mio cervello, l'MD. Ali shit, il più scarso dei miei class, ma come contest. Il più brutto adesso spacca la tua ex. Ciao Pax. cantante armonica. con la festa sulle spalle. Studio quasi tutti senza palle, coda tra le gambe, orecchie basse. Cici con lo scialle, palle con il mallet. Dopo andiamo al tunnel, dopo andiamo all'after. Stendi la gigante, non capisco niente. Serve il salvagente, perché sono il master e il commander. Il vero squallagente degli stronzi in corso come questo è glitter. Fuma, fuma, fuma, fuma. Quasi sicuramente queste non sono le mie mani, tantomeno questa sembra la mia faccia, non che questo scambio mi dispiaccia. Fatti chiari, sembro fatti bravo, basta che sta brutta, c'era già domani, se la lave, mette leve. Ogni sera sta liscendo emozionali, senza corri mani, mani, corri, spendi mani, mani, mani. Balla che sembriamo tutti uguali, tutti casi umani. Balla che sembriamo tutti uguali, tutti casi umani. Sembriamo tutti uguali, tutti casi umani. Bella che sembriamo tutti uguali, tutti casi umani. Balla che sembriamo tutti uguali, tutti cambi umani! Thank you. sangue sul naviglio come prima piaga. Il panico dilaga, d'ora aperitivo il costo sociale paga. Questo gli ultras lo sanno, Milano inferno, gli ultras qua l'inferno lo faranno. Come cavallette con i dismay, come mosche in locali gourmet. Volete una risposta, la risposta c'è il me. Altra non si tocca, qua la curva sbrocca. Milano da bere, non è persi questa verità, la città è nostra. Maria delle vacche in corso Como, caccia l'uomo, basta carne da macello sotto il Duomo. Basta Gucci, basta Armani, solo mani armate senza Dio. Con il popolo barricate, metà buste, busto oltre le buste. Lo curte da sostanze, fanno colpi da maestro. Soprano distanza, sei stupefacenti. Si passano la lingua sopra i denti, sotto cassa sparano. Fussai! Buste oltre le buste, lo buste da sostanze. Fanno colpi da maestro, coprono distanza. Sei stupefacenti, si passano la lingua sopra i denti. Dalle casse in vetro sparano manetta, Hussein. Di classe, di classy bitches, fancy witches, lo sorteggio, ascolto Bridges, piano d'avellino, spaghettino con i elici, la signora lascia sul bicchiere tutto il lipstick, gourmet district, sciabolo agilmente, con qualunque oggetto che ti venga in mente, mentre la sorteggio la bottiglia va, cazzo ma che bollicina bomba, che era fra... Cazzo ma che festa bomba, che era fra... Cazzo ma che festa c'era fra... E in vino verità se la bottiglia va, ma che festa della Madonna che era. E in vino verità e la bottiglia va, cazzo che festa della Madonna che ha. E in vino verità, ma che festa della Madonna che ha. Armonica, yo. E vino verità e la bottiglia va, che bollicina bomba che era fra. cambiando il tempo, sta cambiando il clima, sta cambiando il vento, nulla è come prima, prima chiamavi tu, dicevi accendi la TV, ora non mi chiami più, non fa parte del menù. Non ho bisogno di nessuna protezione, solamente quella del goldone, non vorrei cacciarmi in qualche brutta situazione, aspettarci un po' più di un ricordo, lasciarci più di un ritardo. Forse manco ti sei accorto, sei arrivato a lungo, otto in buca, butta giù un'altra sambuca, lancia mollo, top di marijuana, fai bungee jumping dal terrazzo, levati dal cazzo. Such a gentleman, you're such a gentleman. Such a gentleman. Dai, ci riprendiamo. Sta cambiando il vento, sta cambiando il clima, sta cambiando il tempo, nulla è come prima, prima chiamavi tu, dicevi accendi la TV, ora non mi chiami più, non fa parte del menù. Bisogno di nessuna protezione, solamente quella del goldone, non vorrei cacciarmi in qualche brutta situazione, aspettarci un po' più di un ritardo, lasciarci più di un ricordo. Scusa, manco ti sei accorto, sei arrivato lungo, otto in buca, butta giù un'altra sambuca, lancia mollo, top di marijuana, fai bungee jumping dal terrazzo, levati dal cazzo. Such a gentleman, such a gentleman. Armonica? Such a gentleman. Sta cambiando il tempo, sta cambiando il clima, nulla è come prima. Oh. Thank you. rave nei palazzi, coi ragazzi più matti, più pazzi, più fatti della città. Nei palazzi, in bocca come gli ultra. Non dormiamo mai, non dormiamo mai. Tutti con la cash, tutti senza cash, tutti belli fresh. Tutti con la cash, tutti con la cash, tutti belli fresh. Tutti senza cash, tutti con la cash, tutti belli fresh. Cerca Gunter, poi su Twitter, ovvio che non c'è, non puoi avere match. Tutti con la cash, tutti senza cash. Tutti belli. Non dormiamo mai. Tutti con la cash, tutti senza cash, ma tutti belli fresh. Non dormiamo mai, facciamo finta. Tutti con la cash, tutti senza cash, tutti belli fresh. Cerca glitter, vai su Tinder, ovvio che non c'è, non puoi avere il match. Tre stelle Michelin, cuoco fai da te, ti assicuro che tu lo senti poco, ma qui un po' di taglio c'è. Il mio DJ ha un know-how che oh wow. Il tuo DJ si imbroglia anche a schiacciare il play. Rave nei palazzi, coi ragazzi più marci, più pazzi, più facci della città. Non è la Lalanda, Milano Interlanda, fumo gel in bocca come il dress. Rave nei palazzi, coi ragazzi più marci, più pazzi della città. Non è la Lalanda, Milano Interlanda, fumo gel in bocca come il dress. Marchi, più pazzi della città. Milano Interland, fumo giù in bocca come gli ultras. Ma quanto cazzo è ostile l'aria meleghina, rovente la notte tanto quanto è fredda la mattina, all'alba fare benza in comasina, mezza gamba di broda e il resto in moretti in lattina. Io alla guida, con me una marocchina, sembra carina, dopo l'after l'accompagno a Lima, in tasca non ha spray, lei gira con la lama, lo sguardo perso, il fiato che sta di che tama. Padova, dentro il Grand Boulevard de Paris. Via Padova, via via, via da Padova, è una città di merda. Via Padova, sembra il Grand Boulevard de Paris. Notre club prenderà fuoco in Notre Dame. We'll be right back. Peggio di così si muore, peggio di così si sopravvive. Un altro striscia la notizia. Pure sullo stile classic, mi trovi sempre classic. Ci sto pennello come dressing sulla Caesar Salad. E intorno sono bassi nei competitor, batti il loro standard. Alien contro Predator, torno a casa Letty. Con la crew torniamo a casa Messi. Le auto blu le dribbliamo come Lionel Messi. Déjà vu, tutti questi pezzi c'hanno i prezzi. Prezzi molto bassi, viste queste bad girls. Rappi tu, sotto guarda, sparti i pezzi. Rappo io, sotto festa, si stendono i pezzi. Tocchiamo il butto fuori, così ti mostro l'exit. Nel mio backstage, trovi solo Mary Bay, smoking lunga, purple lace. a wildlife seems to be returning. Yeah, man. Thank you. We'll be right back. Thank you. fender rubber. I go on my naughty go baba. I'm an exit and give me drama. Hey. Switch them up, make my go up. Big dog game and I play with pop. Anyone test like they get pop, pop, pop. Manja on top, triple G on top. That's what's up. I'm a yeah, guy must drop. Guy must drop. Who wants offer? Hollow one, lead better. Love for goosey, go beat and never. Trips abroad, when I'm bored. Moving sharp, shining sword. Is a must, thank the Lord. All my life, it'll be a war. Suffer, suffer, everyday man don't do. Bad energy, back to send that times two. Cash they rule, everything like the woo. Get that cream, with my team. Laser beam on any man, we won't touch my crew. Whoa, we no get ease up, man, till we reach on top. Whoa, we put the work in, man, so we need no luck. Whoa, plant the seed right now, we go chop the crop. Whoa, we know we ease up, man, till we reach the top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top, top, top. Condition don't make crayfish, don't bend. Bad belly is allowed, though, and no send. Everyone got opinions, one or two. Shut your stupid mouth. I do my thing, not for the nobody trend. Day my lane, give me cash. 20 MPH on dash, catching crews, pay my dues. I'ma we see the world at last. Done by car, soon by house. Success of no stupid clouds. Self-made man, got big plans. Soon come, we go, they run them out. We go run them out. Who they think they be? Yeah? We go run them out, not fish out. Back my talk when I run my mouth. Who believe, not get out. Rainy season, not in drought. Whoa, we no get ease up, man, till we reach on top. Whoa, we put the work in, man, so we need no luck. Whoa, plant the seed right now, we go chop the crop. Whoa, we no get ease up, man, till we reach the top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Lekker. Come on. Thank you.